tutti gli uomini della tua vita insieme in un'unica puntata di volti, odori, stronzate già sentite, bugie miscredute. Se soffi via la polvere, un lento scorrere di sguardi, di ricordi, di cose capite troppo tardi, di sottotitoli per non troppo brillanti, di magici istanti dilaniati dalle esplosioni delle suonerie personalizzate che annunciavano indiscrete lieti eventi altrui. Tutti gli uomini della tua vita, uomini in esclusiva, uomini solo in prova, uomini raccattati nel pattume, uomini coperti di piume, di insulti. Dimentichi i volti, ricordi, brividi nella spina dorsale, chi ti ha fatto male, chi ti ha reso felice, e chi non si dice per pudore, per amore, proprio o improprio che sia. Uomini scappati via, uomini lasciati fuori dalla porta a marcire, uomini da due lire, è un lento scorrere, se soffi via la polvere, per questo resti da sola, ma lo sai che prima o poi ci cascherai ancora, come un idiota ti innamorerai di un altro idiota ancora, lo sai, la rifarai, sarà la primavera, sarà che gli idioti sbocciano come fiori sugli alberi e balli da sola, con mille occhi su di te lasci senza parola. Ogni idiota che ti vede sorridere, ma quando scende la sera, lo sai, lo sai, lo sai che quel sorriso non dura. Love, puttana su parche. Così resti da sola, ma lo sai che prima o poi ci cascherai ancora, come un idiota ti innamorerai di un altro idiota ancora, lo sai, la rifarai, sarà la primavera, sarà che gli idioti sbocciano come fiori sugli alberi e balli da sola, su di te lasci senza parola. Ogni idiota che ti vede sorridere, ma quando scende la sera, lo sai, lo sai, lo sai che quel sorriso non dura. Love will turn us apart again.